ed un po' mi fa ridere. Se penso che ora c'è lì un altro che ti uccide i ragni al posto mio, ma ci dovrò convivere. Maledetto cuore che ti scioglie ogni volta che dico addio. Mia mamma e la tua fanno ancora zumba insieme, e a volte forse parlano un po' male di noi. Sai già come finisce, che poi io mi emoziono e invece tu ti annoi. Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai persa ripenserà ogni tanto a cosa siamo stati noi. Alle giornate al mare, a tutte le mie pare, alle cucine che non abbiamo potuto comprare, alle mie guerre perse, alle tue pace finte, a tutte le carezze che forse erano spinte. Giuro che un po' mi fa ridere e ti cantavo per farti dormire quando il mondo ti teneva sveglia, ed ora sono solo un tizio che se lo incontri per la strada gli fai un cenno di saluto e via. E non ho voglia di cambiarmi, uscire a socializzare, questa sera voglio essere una nave in fondo al mare. Sei stata come Tiger, non mi mancava niente, e poi dentro m'hai distrutto, perché mi sono accorto che mi mancava tutto. Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai persa ripenserà ogni tanto a cosa siamo stati noi. Alle giornate al mare, a tutte le mie pare, alle cucine che non abbiamo potuto comprare, lo shampoo all'albicocca, i tuoi capelli in bocca, alla tua testa dura, all'ansia, alla paura. Giuro che un po' mi fa ridere, però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai vecchia racconterai a qualcuno cosa siamo stati noi.